Fatto Giorno, le notizie in 60 minuti. Cari ascoltatori di Radio 24, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Effetto Giorno, un saluto anche da Laura Faggin che ha realizzato con me questo programma, da Pietro Lacorte in regia, dalla redazione intera di Radio 24 che sentirete nei prossimi minuti e dunque andiamo dritti verso i titoli di oggi. Budapest, la polizia lascia la stazione, assalto dei migranti ai treni che cominciano a muoversi verso la frontiera dell'Austria. Alla grande parata militare il presidente della Cina annuncia una trasformazione, tagli dunque 300.000 soldati in meno ma un esercito più moderno. Fondo Monetario Internazionale vede rischi alla ripresa da economia emergente, ma l'Italia va con un documento al G20, accelera con Germania, Francia e Spagna. Francia processa la gang del Louvre, si camuffavano da turisti fra il 2005 e il 2013, hanno portato a casa un bottino vicino al milione di euro. Per il cinema è morto l'attore Dean Jones, guidò il maggiolino tutto matto, aveva 84 anni, una star Disney che fu pilota d'auto e fu molto popolare. Insomma, torniamo anche oggi in primo piano e lo facciamo davvero subito condividendo questo primo racconto, questa prima voce che Valentina Furlanetto ci manda da Budapest e... Dunque, da Budapest, dove, come avete sentito negli ultimi minuti, ci sono degli sviluppi, quindi dopo la chiusura totale, il blocco, poi la polizia ungherese ha di fatto lasciato la stazione, alcuni treni si sono messi in movimento, destinazione Sopron. Beh, Sopron di fatto è l'angolo nord-occidentale dell'Ungheria con vista su Vienna, siamo sostanzialmente sul Danubio, dall'altra parte a poche decine, forse 20 chilometri. C'è Vienna. Allora, dicevamo, le voci a centinaia ancora stanno accampati davanti alla stazione. Allora sentiamo un volontario della ONG ungherese Migration Aid. Naturalmente la voce è stata raccolta da Valentina Furlanetto. Vasárnap óta van már itt olyan tömeg, hogy már nagyon nehéz kezelni. Da domenica c'è un numero di persone che non si può più gestire la situazione. Quali sono le esigenze in questo momento più importanti, quelle sanitarie, il cibo? Ezt folyamatosan megoldják magyar önkéntesek. I volontari ungheresi portano sempre medicina. Cina, cibo, tutto di cui c'è bisogno e risolvono comunque al giorno la situazione, sempre aiutano i volontari. E la situazione di salute dei bambini, delle donne qui? Minden megoldunk. Abbiamo itt a utcán volt a szülés, itt szült. Proprio qualche giorno fa una donna ha partorito addirittura qui. Igen, itt a földön. Qua, per terra. De megindult hamarabb a szülés, azonnal a miénk segítettek, jött a mentő, bevitték kórházba, ellátták. La signora pensava di poter resistere fino alla Germania, però alla fine il parto comunque è cominciato, tutti i volontari e tutti l'aiutavano. Sa come si chiama il bambino? Fatima. Avete aiuto dal governo, dal personale sanitario? Annyi, hogy kaptuk ezt a helységet. No, ricevono solo questo spazio qua, questa camera chiusa, una stanza chiusa, ma nessuno, nient'altro. La stazione è ancora chiusa per i migranti? Okay. Sì, ancora chiusa. Ecco, la situazione è ancora chiusa ma in fase di evoluzione molto rapida. Negli stessi momenti in cui questa intervista veniva raccolta, il presidente ungherese Orban era a colloquio con i vertici dell'Unione Europea. Immediatamente una prima conseguenza è una richiesta di 120.000 ricollocamenti. Che cosa vuol dire? Ricollocamenti sono questo concetto che sta emergendo e che è stato richiesto a suo tempo dall'Italia e la Grecia in primo luogo, quando erano di fatto i luoghi di sbarco. Ricollocamenti dunque anche dall'Ungheria, ce ne sono già 40.000 previsti e già si discute e si litiga per accettare l'idea che profughi che arrivano da Grecia, Italia e ora dall'Ungheria vengano distribuite, ma questo tant'è. Dunque 120.000 ricollocamenti in più viene chiesto dalla Commissione europea e anche questo produce questo cambiamento di atteggiamento da parte dell'Ungheria. Allora, in queste ore naturalmente tutti i leader europei, non solo, sono concentrati su questo tema con naturalmente sfumature molto diverse. Io allora vorrei sentire subito Elisabetta Fiorito che ci parla di quanto immagino il Premier Renzi ha detto o forse sta ancora dicendo sulla crisi umanitaria. Sì, proprio così Gigi, il Premier sta ancora parlando, non è solo un'emergenza, non si risolverà in pochi giorni, ha detto Renzi, richiede una risposta immediata dall'Europa. Il Premier, ricordiamo, è a Malta e ha incontrato il primo ministro Josef Muscat, ma sentiamo che cosa ha detto Renzi. Io credo che noi abbiamo il dovere di dire che l'Europa non può perdere la faccia. Non è colpa dell'Europa se si verificano queste circostanze. È dovere dell'Europa però dare una risposta unitaria, dare una risposta che parta dal diritto d'asilo europeo, dalle iniziative europee sulla accoglienza e gestione dell'emergenza, dal rimpatrio europeo, perché c'è un tema di rimpatrio. Ecco, il Presidente del Consiglio ha ricordato anche il piccolo Aylan, quel bimbo morto sulla spiaggia di Bodrum in Turchia. Sul fronte italiano sono un'ottantina i profughi fermi alla stazione di Bolzano all'indomani della richiesta di aiuto da parte dell'ente tedesco della Baviera all'Alto Adige. 838 invece i migranti che sbarcheranno oggi a Messina dalla banchina Marconi e saranno accolti alle 16 al porto. Non mancano poi le polemiche sul blocco del Brennero, polemiche ovviamente politiche. Per il governatore del Veneto Luca Zaia si parte dalla fine, mentre il ministro degli interni Angelino Alfano accusa la Lega, dopo anni di aggressioni violente si sono resi tutti conto che la responsabilità del flusso migratorio biblico non era colpa del ministro degli interni. A te Gigi. Ok, polemiche a parte, ci sono le immediate risposte nello specifico al governatore Zaia, arrivano dal suo collega Compaccer, dunque della provincia autonoma di Bolzano. Schengen, dice, è tuttora in vigore al Brennero, si tratta esclusivamente di un'intensificazione dei controlli, così appunto Arno Compaccer a 24 mattina smentisce che su richiesta della Germania l'Italia aveva dato disponibilità a ripristinare i controlli al confine del Brennero, ma sentiamolo. Ci aiuti a capire, è sospesa Schengen, com'è la situazione, da dove nasce questo, anche questo malinteso che è uscito sui giornali? No, assolutamente no, la notizia è completamente sbagliata, Schengen è tuttora in vigore, si tratta di una intensificazione dei controlli che comunque andavano avanti già adesso per mesi, anche per dare una mano alla Baviera. Ma intensificazione dei controlli che è chiesta dalla Germania dunque? Chiesta dalla Baviera, perché loro devono affrontare adesso un'ondata record proprio di affluenza sulla rotta orientale, no? Quella dei Balcani. E perciò hanno chiesto a noi, dove la situazione è molto più tranquilla sulla linea del Brennero, fermare e trattenere un attimino quelli che si dirigono verso la Germania. Quante sono le persone che sono trattenute in questo momento? Beh, noi immaginiamo che potranno essere nei prossimi giorni 200-300-400 persone anche. Abbiamo già l'esperienza del G7, allora sì che fu sospeso l'accordo di Schengen, vero. Però la situazione poi tra noi era identica, no? Voleva dire che profughi in transito si dovevano fermare sul nostro territorio e noi comunque eravamo disposti a mettere a disposizione i nostri servizi, l'assistenza che è necessaria poi per i profughi che si fermano sul nostro territorio. Un'Europa che dunque si mobilitano in primo luogo le persone, perché in tutta questa vicenda c'è una grandissima partecipazione di persone che si danno da fare per aiutare, poi quelle organizzazioni che sono più strutturate, che sono abituate a farlo, tra queste sicuramente il mondo cattolico, la diocesi di Milano che attraverso la Caritas ha un'esperienza davvero importante in questo senso, mette a disposizione altri 6 immobili per un totale di 130 posti per accogliere i profughi. Allora sentiamo Don Roberto D'Avanzo ai microfoni di Federica Frola. Lombardia sarà oggetto di un'ulteriore ondata molto molto significativa, deve assorbire il 12%, il 13% degli arrivi complessivi a livello nazionale. Come Caritas Ambrosiana gestiamo diverse centinaia di persone, circa 700. L'arcivescovo dice: io metto a disposizione altri spazi, sono degli appartamenti, sono delle strutture. Faccio appello affinché anche le parrocchie provino a immaginare, se non hanno degli spazi piccoli per 3-4 persone, fossero addirittura dei privati disponibili a mettere a disposizione appunto dei loro spazi, dei loro appartamenti. Chiederemmo appunto di regolare il rapporto con Caritas, riceveranno dalle prefetture gli invii, cioè le persone appunto che andranno a occupare questi spazi. In questi giorni qui a Effetto Giorno abbiamo davvero sentito anche questo variegato mondo che si sta mobilitando. Mi piace ricordare i piccoli comuni, 250 abitanti raccolgono 8 persone in difficoltà, indipendentemente dalla loro provenienza. Intanto la Commissione Europea contatterà le autorità di Praga per avere informazioni su quanto sta accadendo dopo la pubblicazione di foto di migranti marchiati, per così dire, sul braccio col pennarello dalla polizia. Lo annuncia la portavoce per immigrazione e affari interni, Natasha Bertò. E ora naturalmente torneremo a parlare di questi temi nello spazio dell'approfondimento. È tempo di fare un salto verso la Cina, dove un'imponente parata militare presieduta dal presidente cinese Xi Jinping ha celebrato il 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Servizio. La gigantesca parata militare cinese, i proclami di pace del presidente Xi, utili soprattutto a far vedere chi comanda, riaprono temi come la spesa militare e il confronto tra potenze. Gli Stati Uniti restano al primo posto per spesa destinata alla difesa e soprattutto all'avanguardia sull'innovazione tecnologica delle armi, ma a seguire c'è la Cina, che è in questo ambito un attore più rilevante anche della Russia, che infatti è al terzo posto tra i paesi per spesa militare. Sul nucleare però la Russia rimane in un certo senso testa a testa con gli Stati Uniti, perché possiede circa 4.300 testate attive. L'America però ha 2.100 testate schierate e altre 2.660 di riserva, e nei prossimi 10 anni spenderà una cosa come 350 miliardi per l'ammodernamento del settore. In questo senso Pechino resta un po' indietro sull'innovazione, ma non c'è da dubitare che recupererà. Tra le armi cinesi, che non erano mai apparse in pubblico, hanno fatto il loro esordio oggi alla maxi parata di Pechino una decina di missili balistici antiportaerei. Il missile ha una gettata di 1.450 km ed è in grado da solo di affondare una delle enormi 10 portaerei americane in pieno Pacifico. Pechino avrebbe già sviluppato una versione a lunga gettata dello stesso missile, il DF-26, che può centrare in questo caso una portaerei a 3.500 km di distanza. Ma di questo nuovo vettore non esiste neanche un'immagine. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ripresa economica globale moderata, con rischi al ribasso, tra i quali la transizione cinese. Appunto, per Pechino la priorità deve essere una crescita più sostenibile, lo afferma il Fondo Monetario in un documento per il G20. La crescita nella prima metà del 2015 è più bassa rispetto alla seconda metà del 2014 per il rallentamento delle economie emergenti e una ripresa più debole di quelle avanzate. Ma noi torniamo a Roma, Roma capitale. Oggi è il giorno del ritorno del sindaco Marino. Ignazio Marino torna a Roma dopo i veleni per le sue vacanze all'estero, 18 giorni di ferie che lo hanno tenuto lontano dal Campidoglio, anche quando il governo ha deciso di affiancargli il prefetto Gabrielli per la gestione del Giubileo e dei settori dell'amministrazione capitolina finiti al centro dell'inchiesta su Mafia Capitale. Da New York, dove ha incontrato il suo omologo Bill de Blasio, ieri il primo cittadino ha risposto alle critiche con una battuta: se hai molti nemici, ha detto, vuol dire che stai lavorando bene. Cambiare le cose purtroppo spesso porta opposizione, contrasto, ma come ha detto Bill, se non by the end of the day you do not have any enemy, probably you're not doing the right thing. Exactly right. Nel primo pomeriggio il sindaco dovrebbe riunire la giunta, la sua prima uscita pubblica dopo le ferie è invece fissata per le 18, quando Marino parteciperà alla fiaccolata antimafia organizzata dal PD a Piazza Don Bosco, la stessa dove ad agosto si era svolto il funerale scandalo di un boss del clan dei Casa Monica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Scuole per l'infanzia, sciolto il nodo dei precari. Sentiamo Marco Rossidori, assessore all'istruzione a Roma, nell'intervista di Valeria Grandi. Dato che esiste l'articolo 3 della Costituzione, le lavoratrici dei comuni italiani devono essere trattati come i lavoratori dello Stato che usufruiscono della norma della buona scuola. Poi in quest'anno dobbiamo metterci tutti insieme, comuni italiani, a lavorare per trovare soluzioni strutturali. Come viene aggirato il limite posto dalla Corte di Giustizia europea di 36 mesi per il precariato? Non può e non deve essere aggirato. C'è solo una deroga temporale, così come sta nella buona scuola. Ci danno un anno di tempo per poter lavorare. E adesso Marta Cagnola e Carlo Genta ci fanno respirare un attimo dopo tutta questa hard news, come si dice. Allora, Marta ci porta naturalmente a Venezia, dove è partito. Sì, è partito tutto con Everest. So che Gigi tu lo aspettavi e lo aspetti, sì, moltissimo, questo film dell'islandese Baltasar Kormákur. Ho imparato la pronuncia. La storia vera del disastro sull'Everest nel 1996. Everest uscirà in Italia il 24 settembre. Questo lo dico subito. La storia è raccontata da John Krakauer, giornalista e scalatore, uno dei sopravvissuti di quella tragedia. Da notare però a Venezia anche un altro evento, Keri Joji Fukunaga, nome complicatissimo, regista un po' giapponese, un po' americano, un po' svedese. Lui è stato regista della prima stagione di True Detective. Ha presentato a Venezia Beasts of No Nation, film che parla di orrori della guerra. Al di là del tema importante, l'importanza è che il primo film di Netflix mai arrivato a Venezia uscirà su Netflix il 16 ottobre, quindi sulla piattaforma a pagamento che sta per arrivare anche in Italia. Aggiornamento invece rapidissimo sugli italiani. Gli italiani arriverà in sala il 24 settembre. È stato presentato il film con Riccardo Scamarcio, La prima luce di Vincenzo Marra, la storia di un viaggio intercontinentale tra Italia e Cile alla ricerca del figlio conteso. Parte anche questo da una vicenda autobiografica. Insomma, questo lo vedremo il 24 settembre. Importante seguire la mostra di Venezia, sapere sempre quando usciranno i film, perché così li potremo finalmente vedere anche in sala. E Marta Cagnola ovviamente ci terrà aggiornati su questo fronte, mentre Carlo Genta, ieri era il giorno, come dire, propedeutico alla nazionale, che però gioca stasera. Ah, finalmente. Gioca, ho stasera, sentito che biglietti pochissimi inti a Firenze, inti. Ma d'altra parte 9.500 biglietti venduti saranno, non so, mettiamo 10.000, 11.000 se vogliamo essere ottimisti, quelli che guarderanno allo stadio Italia-Malta. D'altra parte non è esattamente una partita di grande appeal, in parte per l'avversario ovviamente, in parte per il momento grigio dell'Italia, perché nel 2015 ci sono stati i pareggi con la Bulgaria 2-2, con l'Inghilterra, con la Croazia e la sconfitta con il Portogallo, quindi si cerca la prima vittoria, possibilmente da bissare domenica a Palermo contro la Bulgaria. Sono due gare che valgono per le qualificazioni europee, però direi che in questo momento l'Italia, sedicesimo posto nel ranking mondiale, insomma, deve recuperare di tanta credibilità. Quindi cominciamo da Malta. Cominciamo con tutto Malta. Il rispetto. Grazie a Carlo Genta, ed è ovviamente tempo, con un po' di ritardo, mi scuso, per gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli. Quando sono le 13:19 minuti, l'ultima notizia dice che l'UE sta cominciando, chissà, forse davvero a mostrare un pochino almeno una personalità autonoma. E perché dico questo? Perché l'UE dice sanzioni a chi non ricolloca. Ricolloca significa ovviamente a chi non condivide il fardello di un'ondata migratoria imponente e che naturalmente prende una piega del tutto diversa se a gestirlo sono tre stati, magari grandi, oppure 28 stati che, lo ricordo, fanno parte dell'Unione Europea. Sicuramente uno degli stati, anzi lo stato al centro di tutto in queste giornate è l'Ungheria. Noi allora torniamo da Valentina Furlanetto, che ormai da più di 24 ore alla stazione Cheleti. Valentina, le ultime. Sì, buongiorno Gigi, le ultime sono che sono partiti due treni questa mattina, uno alle 12:45, uno circa un'ora prima, tutti e due diretti verso il confine ovest dell'Ungheria, verso la città di Győr. Le ultime notizie da fonte ungherese sono che uno di questi treni, l'ultimo che è partito, è stato fermato a Bixé, vicino a un campo profughi, un campo rifugiati. Tutti sono stati fatti scendere, ci sono state anche scene di tensione. Perché? Perché questi profughi che da due giorni stazionavano in stazione, che era chiusa fino a stamattina, non sapevano dove stavano andando. Erano convinti di andare in Germania, urlavano gridavano dai finestrini Alemagna, Alemagna, Germany, Germany, perché erano convinti di andare in Germania. Tra l'altro abbiamo incontrato anche una ragazza siriana che abita da 2 anni a Monaco, è venuta in treno ieri per raggiungere la sua famiglia che invece era salita dalla Siria per portarli a Monaco, e anche lei è rimasta bloccata qui in stazione. Una Valentina Furlanetto resta con noi per cortesia, abbiamo anche il collega Mauro Mondello, qualche 2 giorni fa era in collegamento diretto da Bodrum. Oggi tutti abbiamo negli occhi questa immagine, questo scatto davvero drammatico di questo piccolo bambino che, come dire, ci somiglia così tanto, perché è ovvio che c'è una tragedia e c'è una certa dose di cinismo in ciascuno di noi, ma quel bambino, il suo abbigliamento, la sua polo rossa, i pantaloncini, le scarpette di buona fattura, chissà, forse c'è bisogno anche di questo per aprire gli occhi. Oggi, Mondello, letteralmente ti chiedo, dove sei? Adesso io sono in Grecia, mi sto dirigendo verso il confine fra Grecia e Macedonia, che in pratica è uno dei primi confini che una volta i migranti sono riusciti a raggiungere la Grecia, poi devono provare a superare. Ecco Mauro, quindi tu sei, diciamo, sei dietro tra virgolette nel percorso rispetto a Valentina, perché la sensazione che tutti noi avvertiamo è che accendiamo dei riflettori su dei luoghi, poi spariscono, ma Bodrum, al di là di questa foto che rimarrà credo nel cuore di tutti noi per sempre, ma il flusso continua o nel frattempo si sono fermati? E lì dove sei, la situazione è quella ancora di quel fiume di persone che ci hai descritto nei giorni scorsi? Beh sì, allora per quanto riguarda Bodrum il fiume di persone continua ad arrivare, è un po' rallentato bisogna dire negli ultimi 2 o 3 giorni, ma risulta difficile francamente dire che si sia fermato. La sensazione è che pian piano, in maniera incostante, ma le persone continuino ad arrivare e continueranno ad arrivare. Qui invece dove mi trovo adesso le persone sono davvero tante, anche perché diciamo che le modalità attraverso cui riescono ad arrivare poi alla frontiera con la Macedonia sono varie. Io ho incontrato persone a piedi, altre che arrivano in autobus, altre attraverso dei passaggi di fortuna. In pratica questo sistema, questo modo completamente anarchico di compiere il passaggio dalla Grecia verso la frontiera poi fa sì che sia difficilmente gestibile dal punto di vista numerico, e per questo poi si creano quelle situazioni di massa che abbiamo visto su tutti i giornali, sulle foto e sui video che in questi giorni circolano su internet. Insomma, tutti noi, e lo dico senza nessuna forma di accusa perché è inevitabile, come dire, ci focalizziamo sugli ingorghi, così si chiamano, come quelli estivi, in questo caso però di persone, però tra questi luoghi c'è un percorso continuo, dunque la Macedonia, evidentemente la Serbia, poi sarà l'Ungheria, la frontiera. Io ringrazio Mauro Mondello per questo aggiornamento, torno da Valentina Furlanetto, dicevamo la frontiera e poi l'Ungheria. Mauro, e anche ieri ne abbiamo parlato, sottolineava il tema dell'approccio anarchico. Tu ci hai descritto e abbiamo mandato le voci che hai raccolto di operatori che dicevano di fatto siamo soli in una situazione molto complessa. Assolutamente, tieni presente che qui a parte Migration Aid, che è una ONG ungherese che sta facendo molto, io non ho visto la Croce Rossa Internazionale, non ho visto l'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU li ho contattati e loro non ci sono perché non hanno avuto mandato, perché questo è un paese che ha un governo, che è un paese democratico, quindi non dovrebbero intervenire, teoricamente sarebbe il governo a dover distribuire acqua e quant'altro, in realtà questo non viene fatto. Non ci sono altre ONG che di solito si vedono, probabilmente per gli stessi ragioni, perché questo non è un paese in stato di guerra, eppure la sensazione è di vedere un paese in cui le condizioni democratiche insomma sono un pochino offuscate forse in questo momento. Certo, ci sono tantissimi arrivi, 2000 circa in media ogni 24 ore, però qui in stazione adesso è un po' meno affollata di prima perché sono partiti, ma appunto la sensazione è che nessuno spieghi loro cosa possono fare, dove stanno andando, quali sono i treni che possono prendere, e comunque rimane in vigore, gli autoparlanti ogni tanto lo ripetono, il fatto che i treni internazionali non partono, quindi chiunque rimane bloccato all'interno dell'Ungheria. Ecco, in questo caso però naturalmente con una chiara volontà di come dire, orientare il percorso, perché i treni, ci raccontavi, sono diretti verso il confine austriaco. Sì, guarda, questo campo è a 100 km dal confine austriaco, non è veramente al confine. Tra l'altro, una volta che loro escono, è molto probabile che intercettino dei trafficanti che possono caricarli. Quindi, diciamo, non è una della situazione in cui prendi un treno, vai a Monaco. No, no, questo è chiaro, però voglio dire, qui abbiamo detto che ci sono trablocchi e ripartenze. Okay. La sensazione, Gigi, anche parlando con gli operatori qui, è che nonostante per giorni siamo accampati e ci sia una situazione di frustrazione crescente, di stanchezza crescente, non ci sono state tensioni molto alte, non ci sono stati disordini, ma che si potrebbe arrivare a questo, e forse è questa la tendenza che non voglio dire che sia ricercata da taluni, però insomma se scoppia una rissa o ci sono dei feriti, ecco, forse si può giustificare il fatto che i migranti non debbano stare in Ungheria. Valentina, una domanda conclusiva: l'opinione pubblica, quindi gli ungheresi che non partecipano per ragioni, accedono, sono intorno alla stazione, partecipano, che approccio hanno? Allora, ci sono molti ungheresi che arrivano con pacchi di cibo, quindi vestiario, aiutano. Sì, è proprio cittadini che arrivano, aiutano. E poi c'è tutta una città che vive una vita parallela, come anche normale che sia. La città va avanti, le sue piazze sono pulite, certo. Non vengono più in questa stazione. Mi dicevano gli edicolanti, le persone che hanno in gestione i bar qui della stazione, abbiamo molto meno traffico. Chiaramente, per qualche giorno sicuramente avranno un altro tipo di traffico. In tutto questo le posizioni ufficiali del governo ungherese, dice tra l'altro Orban, che come vi ho detto ha incontrato Tusk, ha incontrato Schulz, insomma i vertici europei, dice la difesa dei confini esterni non è una scelta ma è previsto dalla legge, dice Orban. Noi stiamo difendendo Schengen, stiamo difendendo l'Europa. Ecco, questo davvero mi dà il destro per ricordare anche a tutti noi, perché stiamo facendo questo viaggio che ci porterà per tutto il mese di settembre, all'inizio di ottobre, quanto sarà necessario lungo le frontiere del nostro continente, inteso come Unione Europea 28, perché le posizioni sono estremamente diverse, perché in questi giorni si sta anche riscrivendo la storia dell'Unione Europea. Quando poco fa abbiamo letto che per la prima volta nella storia la Commissione starebbe considerando l'idea di imporre sanzioni a chi non condivide il fardello, beh, si va verso una linea di confronto molto duro. Ricordiamolo, ci sono paesi che fino a questo momento hanno ritenuto opportuno non essere coinvolti in questo fastidioso grandissimo problema. Mentre sono le 13:28, parleremo tra poco invece con un altro ospite che ci porterà di nuovo nell'Europa centrale. Adesso però, ringraziando la regia e Pietro Lacorte, è tempo delle borse. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Budapest, la polizia lascia la stazione, assalto dei migranti ai treni, i convogli per adesso non raggiungono l'ovest ma restano all'interno del paese verso la frontiera austriaca. Cina, la grande parata militare, il presidente annuncia i tagli di 300.000 effettivi ma una trasformazione dell'esercito per essere più forti, e dice non cerchiamo l'egemonia. Il Fondo Monetario Internazionale vede rischi per la ripresa dalle economie emergenti, dall'Italia un documento per il G20 che accelera con Germania, Francia e Spagna, secondo appunto la visione del Fondo Monetario Internazionale. E adesso, visto che siamo perfettamente in tema, le borse. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, l'immigrazione in primo piano, appena battuta dalle agenzie, una doppia notizia che ci riporta nel tema, che ci riporta in Europa centrale. L'ultima, vi leggo, è: la polizia ceca non scriverà più i numeri sulle braccia dei migranti. Lo ha comunicato un portavoce, precisando che la pratica adottata in una situazione caotica serviva ad evitare che i bambini fossero separati dalle madri. I numeri verranno ora scritti su una fascia messa a al polso. E da qui partiamo con Josef Kaspar. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, fra i quali ci sono spesso anch'io. Ah, questo ci fa doppiamente piacere. Josef Kaspar è un giornalista ceco, è nato a Praga, dunque nel cuore della Cechia di oggi, della Cecoslovacchia di allora. Partiamo da questo punto, però magari lo chiudiamo rapidamente. Questa vicenda è stata, come dire, uno shock anche all'interno del paese, la sensazione dalla reazione del governo, sì. Ma sì, sicuramente, diciamo così, che è meglio tardi che mai. Certo. E quello che io avrei comunque preferito, ma questo fa parte un pochettino dello stile del governo, che oltre, diciamo, a questa dichiarazione che in qualche modo spiega questo fatto increscioso e che non corrisponde a quello che è il sentimento, diciamo, la vita del paese, sarebbe stato anche meglio se un ministro o forse anche capo del governo avesse fatto una dichiarazione: ci dispiace, abbiamo dato l'impressione di una cosa che non è vera e vi assicuriamo che non si ripeterà. Invece loro, va bene, diciamo che il comunicato è stato un po' scarno, ma quello che, e la ringrazio di aiutarci oggi ad approfondire brevemente, è l'Europa centrale, dunque la Repubblica Ceca, la Slovacchia eccetera, si trovano ora su un nuovo confine della migrazione, c'è uno spavento particolare, perché diciamo in estrema sintesi qui a sud, nei paesi dell'Europa centrale non c'è volontà di partecipare al fardello della migrazione? Io soltanto che devo fare una piccola correzione che mi è toccata fare già ieri. Non è vero del tutto che per esempio la Repubblica Ceca non vuole accogliere nessuno. Non bisogna dimenticare che oltre al Mediterraneo e ai Balcani c'è anche l'Ucraina. Ci sono altre porte. Devo dirle che per esempio nella Repubblica Ceca nell'arco dell'ultimo anno e mezzo sono venuti 150.000 ucraini che hanno trovato tutti lavoro, imparano la lingua e sono stati sistemati. Ora, per quanto riguarda, diciamo, i profughi che provengono dal Mediterraneo oppure dai Balcani, c'è un fatto, se vuole, anche un po' psicologico, almeno cerco di spiegarlo agli ascoltatori. Sì, che tra l'altro diciamo probabilmente ci fa, come dire, ci tocca su quella notizia l'altro giorno, in questo caso la Slovacchia ha detto sì, ma solo cristiani. Vabbè, questo è francamente... No, l'hanno detto perché c'era una questione culturale. Allora, comunque, ci spieghi. Beh, diciamo così. Vede, i cechi e un po' anche i slovacchi hanno un po' quello che si può chiamare il complesso di una nazione piccola. Cioè, in qualche modo, nella nostra storia, una volta è stato Berlino, una volta è stata Vienna, una volta è stata Mosca, che ci hanno detto ciò che dobbiamo fare. Ora, quando a un certo punto da Bruxelles è venuta questa cosa, dovete accettare, almeno per quanto riguarda il governo ceco, ha detto noi volontariamente accettiamo, ma non accettiamo un'imposizione, perché in qualche maniera, e non solo per colpa, diciamo, dei governanti cechi, ma anche per colpa di qualcun altro, si è sparsa la convinzione che l'Unione Europea è in qualche maniera una specie di condominio dove comandano i paesi più grossi e più importanti. Allora hanno detto noi accettiamo così. Poi, a parte questo, bisogna dire onestamente che c'è un problema effettivamente culturale. Bisogna tenere presente questo, che la popolazione ceca, e penso anche con la Slovacca, sia rimasta estremamente colpita da quello che è successo a Parigi, da quello che è successo a Madrid qualche tempo fa, a Bruxelles eccetera, e in qualche modo hanno paura del fatto che se queste persone, soprattutto di religione musulmana, si dovessero stabilire e se non si dovessero in qualche modo integrare, potrebbero domani dopodomani fare quello, certo, che hanno fatto purtroppo alcune persone a Parigi. Quindi preoccupazioni del tutto comprensibili, interessante anche questa spiegazione sull'Unione Europea, insomma, di fatto la Repubblica Ceca cos'ha, 10 milioni di abitanti? Esatto. Ecco, quindi che effettivamente, come dire, è una prospettiva diversa dagli 80 della Germania. Quindi una prospettiva culturale. In questa fase, però, a suo avviso, quindi questa crisi aiuterà anche a regolare queste situazioni? Cioè si va davvero verso una condivisione di questo fardello complessivo? Ma come a volte succede, dal male a volte nasce qualche cosa di buono, perché per esempio oggi i giornali cechi riportano che cresce enormemente il numero di volontari che vogliono aiutare questi migranti. Non solo, siccome per fortuna dei cechi l'economia ceca corre a velocità, perché quest'anno il PIL salirà del 4,4% e il numero di disoccupati è più basso dopo la Germania, ci sono diverse ditte ceche che si sono offerte di impiegare moltissime persone e che per coloro che in qualche modo hanno una preparazione scolastica adatta anche fargli fare dei corsi di lingua ceca per potersi inserire. Quindi in dello spazio parole, potenziale c'è. Sì, cioè, dicevo, dello spazio potenziale c'è. Io ringrazio Josef Kaspar di averci dato questo spaccato di paesi che sono molto vicini ma che per una serie di ragioni noi frequentiamo davvero poco, troppo poco. Io lo ringrazio molto, torneremo spero a parlare di questa che è il cuore dell'Europa, l'Europa centrale. Ora però ci spostiamo come per magia a Shanghai. Saro Capozzoli, buonasera a questo punto, bentornato naturalmente. Buonasera. A Radio 24. Ecco, se c'è un paese che non ha paura delle dimensioni altrui è la Cina. A volte l'interrogativo è, come magari è accaduto oggi, che cosa significa questa grande parata, se non ovviamente una celebrazione, una festa. Da una parte sentiamo una riduzione dell'esercito, dall'altra un grande riammodernamento. Insomma, vista da Shanghai la parata com'è stata? Vista da Shanghai la parata l'abbiamo vista in televisione un po' come insieme a un altro miliardo di persone, perché erano praticamente tutti attaccati alla televisione, anche negli aeroporti, negli uffici, nell'ufficio non chiusi in verità, ma nei negozi, ecco, diciamo che è un evento proprio totale e marca una specie di spartiacque, perché la Cina vuol chiudere un capitolo col passato, che è quello della Seconda Guerra Mondiale, e vuole aprire una nuova era. E questo che praticamente si è sentito oggi. Ecco, quel capitolo della Seconda Guerra Mondiale vuol dire ovviamente anche Giappone. Sì, il Giappone, perché che ha avuto, purtroppo, pur essendo stato invitato, non è venuto e ha fatto, diciamo, comunque confermare un attimino questo atteggiamento giapponese che è incomprensibile, mentre l'Italia, ma anche la Germania specialmente, hanno ripudiato il passato e hanno chiesto anche scusa di quello che è successo, hanno cercato anche di rimediare, il Giappone non ha mai fatto questo atto, diciamo, che è una questione preliminare molto di faccia, molto importante, dire ok, abbiamo sbagliato, andiamo avanti. Questo passaggio non è stato fatto e qui resta come una ferita insanata. Però quello che è successo oggi è stato, al di là della forza di far vedere i muscoli, come hanno detto in molti, è anche stato un momento in cui Xi Jinping, il presidente cinese, ha anche detto ridurremo le forze armate di 300.000 unità, cioè quindi anche una specie di dire ok, siamo qui, siamo forti, però siamo anche pronti a fare dei cambiamenti anche verso la pace, cercare di creare un clima di pace. Ecco, una battuta in conclusione, giorni complessi, difficili per la borsa di Shanghai, qual è l'aria che si respira all'interno della Cina rispetto a questi eventi? Ma diciamo che l'economia va avanti, cioè c'è un assestamento, e noi qui lo vediamo molto positivamente, che ne dicono non so i giornali in Europa o nel mondo, perché è un qualcosa che è iniziato già nel 2012, un rallentamento, diciamo, guidato dell'economia, perché la Cina non si può pretendere alla Cina di crescere al 10% all'anno. Insomma, il famoso soft landing che tutti cercano, questi sarebbero segnali di soft landing, un atterraggio non brusco. No, beh, l'atterraggio sono cose abbastanza difficili da governare. Ci sono il governo semplicemente ha deciso, non vuole più intervenire dentro gli affari, diciamo, della borsa o della finanza, non vuole più, infatti ha fatto pochi interventi, quasi dovuti per calmare un po' il mercato internazionale, ma internamente è passato un messaggio. Chi vuole fare soldi lo fa, ma su rischio e pericolo e non più sulle spalle del governo. Quindi le aziende statali sono chiamate all'ordine a cercare di non sprecare più, le amministrazioni. E ad assumersi le proprie responsabilità. Grazie a Saro Capozzoli, in diretta, naturalmente in collegamento, e buona serata da Shanghai. Ora è tempo degli aggiornamenti per chi è in viaggio.